prima, quella domanda secondo me era più semplice, perché facevi tata, scrivevi sì, no, per dire uno, due o tre delle domande, e se più o meno riuscivi a capire la logica indovinavi. Ma adesso con la discussione te la partono in un modo diverso l'approccio, per cui bisogna stare un po' attenti. Per questo qua, una domanda che hanno fatto a me era un pochettino così, e infatti poi gliela dicevi in un modo e quello non l'ha capita la risposta. Roscio, ti fanno una domanda tra bocchetto, capito? No, ma se tu usi dei linguaggi che loro non usano, quando io ho parlato di reciproco, la frequenza, la risonanza era il reciproco della lunghezza d'onda, allungando la lunghezza diminuisce la frequenza. Detto reciproco vuol dire così, l'inverso, inversamente proporzionale. Come? Allora mi ha fatto venire il dubbio, non è che sto sbagliando. Allora poi ho detto, li ripeto, allora li ho fatto, ah sì sì, glielo dovevi dire nel modo loro. Così quando mi ha parlato dell'AGC, ho detto qual è quel sistema che serve, eccetera, eccetera, ho detto l'AGC, cos'è questa AGC? Ho detto automatic gain control, controllo automatico, ah sì sì, va bene. L'altro lo sapeva l'ingegnere, ma quello che mi ha interrogato non probabilmente non conosceva il significato dell'AGC in inglese. E cacchio, è rimasto così. Infatti ho detto, boh, me lo dica in un altro modo, e glielo dico in un altro modo. Ho capito. Quanti esaminatori c'erano lì? Online? In tutto mi sembra che erano 8. C'era quello che parlava, e l'altra, e poi c'era l'ingegnere. L'ingegnere era in gamba, perché lui tutte le domande che ho fatto con la testa diceva sì, sì. L'altro quando mi ha fatto due domande è rimasto come? E l'ingegnere aveva detto sì, che era giusta, perché mi ha chiesto, insomma te l'ho già detto, qual era il tipo di emissione dove c'erano esente da disturbi. Io ho fatto il CV doppio, come il CV doppio? Ho fatto, se parliamo di fonia, la banda laterale, le SSB, ah sì sì, va bene. L'altro aveva detto di sì, perché tu dovevi dirgli la risposta che voleva lui, e questo è il problema, anche se il CV doppio è giusto, perché è una larghezza di banda inferiore, per cui occupa una meno banda ed è più esente dai disturbi. Lui, tu dovevi dirgli le SSB, perché lui c'era già intestardito su quel tipo di risposta. Ma CV doppio è giusta. Vabbè. Dai, comunque è andata bene, fa tutto quanto, hai studiato, sono contento che ci sei passato. Adesso vediamo io, il prossimo anno penso di uscirci, tranquillamente, non problem. Vediamo se è entrato, chi c'era poi? C'era Gianfranco, Gianfranco ti sei perso o ci sei ancora? Sì, stavo ascoltando una musica notevole dei famosi Procolarum, bellissima. Erano gli anni storici della musica. Anni storici. Chi è che voleva? Di cosa stavate parlando? Perché sono stato di esami. Esami di che cosa? Esami da radioamatore. Così ci abbiamo anche a Franco e facciamo la squadra poi. Spero anche il tattalino. E facciamo anche un'associazione, già che ci siamo. Sì, però non possiamo farla, qual è il problema? Facciamo tutto quello che c'è da fare, non c'è problema. Almeno smettiamo un po', un colpo qui, un colpo là, un colpo in testa, calcio in culo. È un po' di tutto, ragazzi. Allora, a Claudio lo mettiamo presidente dell'associazione, e io sono il cassiere. No, a me mi dovete lasciare su Santa Base, non ci fa presidente inutile. Io posso fare il presidente dell'associazione dei Bucarotti. Natalino lo facciamo presidente onorario, gli diamo il candeliere d'oro. Io ce l'ho già il candeliere. Ma Natalino ce l'ha già, cosa? C'ha la pedifella d'oro lui. Ah, la pedifella. Allora, lui c'ha la pedifella d'oro, capito? La pedifella d'oro è il primo cuocuomo in assoluto, c'ha anche il diploma. E perché non lo sapevi che era il cuocuomo? A proposito del diploma, non so se ve l'ho detto. Ci mancherebbe. Mo ti faccio mandare il tappio, così ti attappiri anche tu. E sei cuocuomo e attappirato. E per il vella pure. stavo dicendo, non so se ve l'ho detto, come si chiama, quel collegamento che ho fatto, collegamento in SWL come ricezione, quello che hanno fatto a 1323 di Marcuni, quel discorso che ha fatto Marcuni il 12 dicembre, mi hanno risposto, mi ha detto che complimenti per il coso e mi mandano la QSL, il direttore non so che centro è questo qua, per cui ci avrò una bella QSL quando me la manda. Oh, e quindi adesso cosa sei? Qualcuno anche tu? No, era soltanto una soddisfazione perché l'hanno fatto per i 100, 120 anni del primo collegamento transoceanico di Marcuni, hanno ritrasmesso il discorso che ha fatto lui in, in tre frequenze e l'ho, l'ho ricevuto un paio di settimane, il 12 di dicembre l'hanno fatto, alle 23.50, un sabato l'ho preso, e l'ho registrato, e me lo sono registrato dal cellulare, e dopodiché ho mandato la mail, ho detto mandare chi lo riceve, a mandare l'email, mi hanno risposto, mi ha detto che stanno preparando le QSL per spedirle. Va bene, vedi, va bene, va bene, alla grande, ottimo per la truppa. Avanti, fra, riprendi, quindi va bene il garage, sta funzionando bene, fra. Una bomba, eh. 9.20 sta arrivando, 9.20, 9.22 qualcosa qua. Ti ascolto veramente bene, anche la radio bella, bella forte, alla grande. Meglio così, meglio così. È un po' fermo questa radio, oggi mi sono dedicato a lei, l'ho aperta, l'ho tutta pulita, soffiata. Mi ho pulito tutti i pomelli, è nuova nuova, non c'aveva niente, però era un po' stato l'abbandono. Per non stare sempre con i K, allora tu ci la facciamo andare un po' là, tanto la potenza già ce l'ha, c'ha quasi 20 watt, quindi ha voglia. No, va benissimo. Aspetta, stamattina c'avevo due cornacchie attaccate al radiale dell'antenna, ma non l'hanno tagliati però, eh. Cazzo, lascia perdere, lascia perdere. Cazzo, ho fatto in tempo a mettermi sotto la veranda, ragazzi, mai visto una cosa del genere. È uscita mia figlia alle 8:20, e di solito poi vado e mi chiudo il cancello per non stare lì a, a perdere tempo. È passata questo, questi storni, cazzo, mi hanno fatto il giardino nero, aspetta, provo a rispondere al telefono. Vai, Natali. Io li ho visti parecchie volte. Ma una volta ha tirato una fucilata e mezzo, eh. Allucinante, so. Se passi in macchina te la beffa, poi non esce, è un casino toglierla. La macchina pure è bianca, l'hanno fatta la beffa, ma tu ne hai cosa ho dovuto fare per toglierlo con l'acqua a pressione, col pulivapor, cacchio. Poi con la spugna si è incollata per toglierla. No, che macchina tutta la vernice, tutta la cappotta macchiata, capito? Anche se la pulisci la macchina rimane, sul metallizzato qui è un casino. Sì, no, metallizzato è anche peggio. Poi la macchina mia, il tetto è alto, non ci arrivi, devi mettere un banchetto per arrivare perché è un bel larga e tutto, non riesci, se no. Ma l'altro giorno per togliere un'ora con l'acqua a pressione proprio puntata a diretta, a certi punti la dovevi passare la spugna, non ce la facevi, proprio cemento, quando ti si attacca il cemento. E non conviene lasciarlo troppo perché poi ti rovina la carrozzeria, la vernice. Beh sì, è così in definitiva. Poi in campagna mi è passata una nuvola pienica, tutto un bombardamento hanno fatto. Ma io non capisco cosa sta creando tutto questo, come si chiama, questa quantità di questi uccelli, questi turni in modo esagerato, sembra tipo quel film, non so se vi ricordate, La guerra dei mondi o cosa era, che c'erano quelle immagini, vedevi tutti quegli uccelli scappare, cosa, sembra la stessa cosa, quando vedi milioni e milioni, sopra poi sono sempre più o meno nelle stesse zone, se voi andate nella zona di Viale Italia, sopra il pronto soccorso, di lì una cosa, l'altra volta ho accompagnato una persona e c'era un'oretta fuori, ecco quello che c'era di questi uccelli, milioni, milioni e milioni, sembravano del fumo, invece erano questi uccelli, tutta quella zona lì. Un casino sì. Vabbè, ci vuoi fare. Ma in campagna è pieno perché ci sono gli alberi di ulivi, capito? E vanno lì. Ma prima non si vedevano così in grande quantità, mi ricordo da ragazzino qualche volta così, ma piccoli lì su. Qua invece sono milioni, una cosa mai vista. Chi invece sto notando che stanno scomparendo sono le rondini. Io quando ero ragazzino, dove abito io, era pieno di rondini, quando arrivava la primavera era pieno di rondini. Raramente ne vedo, se ne hanno mangiati tutte le cornacchie, non lo so. Beh, sicuramente sì. Stavo dicendo, Robè, ma quel sito che hai mandato in PDF, ma io lo voglio trasportare praticamente sul computer. Ma entra direttamente, scrivi quello lì sul computer e te lo guardi dal computer. Sarà un casino, con questo tablet non si vede nulla, è piccolino, ragazzi. Ogni volta che venga ingrandire, ragazzi, è un casino. Sul computer, com'era il sito? Dai, mica più il sito e lo metto qua e me lo cerco sul computer, dai, faccio primo. Non me lo ricordo però, fra. Cerca quello che ti ho mandato io e scrivi quello che c'è scritto lì. Ok, vediamo. Ma Claudio c'è, devo dire roba. Vai, andiamo fra. Claudio, al telefono. Nathalie, la vuoi ascoltare una cosa e poi vediamo se riesci a capire di cosa si tratta. Tu e io ci avevamo 10 anni quando la trasmettevano. Grazie dei fiori. No, è una cosa di radio. E Nathalie no, quando lo vuoi non c'è come al solito. Sono qua. Allora, allungati le orecchie e dimmi se riconosci questa emissione. Noi avevamo esattamente 10 anni, quindi è molto molto molto vecchia, è una radio a 4 valvole e 2 trasformatori, vediamo un po' se riesco a mandarsela, finisce. No, negativo. Tu Roberto neanche te lo chiedo, neanche un altro. Ma di cosa sta parlando? Ricordo, poi l'ha detto lui, comunica la radio Costa, e che cosa comunica? Ha chiuso su più bello. Sì, vabbè, comunicava che aveva raccolto un naufrago praticamente. Era addirittura il famosissimo Fosco Giacchetti, che faceva uno sceneggiato rigorosamente in bianco e nero, il guardiano del faro, 1967. No, il guardiano del faro già me lo ricordo, c'era quella musica. Ma quanti anni avevi? 3 anni? No, sarà nei 70, dai. Io sono del 63, ci avrò avuto 6-7 anni, dai. Questo dal 67, 6-7. Ma gliel'hanno dato pure replicato 50 volte. Già me lo ricordo, il guardiano del faro. C'era la canzone pure era andata in classifica. La canticchiavo pure. Cerca. Era ricco di sceneggiati, tipo Belfaro, perché non si faceva dormire, quelli lì. Ti ricordi che c'erano quelle macchine? Ah, mi fanno troppo ridere, te le ricordi tra le due francesi, la polizia? Certo, è un bel spavento, quando c'era Belfago, mamma mia, no, paura che ci avevamo, perché ero piccolino, proprio 5-6 anni avevo, che era bianco e nero, il mostro, il fantasma del Lufro, che poi era una donna quello lì, oppure che era triste, le stelle stanno a guardare, te lo ricordi quello sceneggiato, ma nella miniera che erano morti tutti poi. Grandi attori, veramente grandi. E no, ti volevo dire riguardo a quello di Belfago, se ti ricordi, oltre le Dublin, così si chiamavano, credo, il coso lì, il Citroën, il furgone della polizia francese, il Citroën, c'era quell'antenna lunga, lunga, lunga, e le radio col microtelefono che già mi appassionavano. Ho visto a Sassari che c'è un carro attrezzi col muso identico, ovviamente sarà un mezzo moderno, presumo, però era proprio, cioè è identico al vecchio furgone che ci avevano qui della Citroën della polizia francese. L'hai visto in giro? Sì, conosco anche te lo guida, lo conosco benissimo. Cosa, Tangiano ce l'ha, bello, l'hanno rifatto, è un mezzo nuovo quello, rifatto in epoca, stile d'epoca, l'hanno riportato con lo stile con quei baffi della Citroën, con le euro vecchiate. Guardate il messaggio. Nathalie, quando eravamo piccoli, no, piccoli, E quello l'avevo visto anch'io, però non mi ricordo quel messaggio radio che mi hai fatto sentire. Il guardiano del faro. Francesco Giacchetti. E allora da fuori non arrivavano, era la produzione nazionale, quando eravamo piccoli, tutto lì. Poi chi c'era? Franco, c'è sempre Franco? No. Roberto al telefono, chi è rimasto? Io solo deve essere. Claudio non c'è. Sarà anche lui al telefono. Che senti? Che cosa strana, più diventi vecchio e più ricordi il passato. È vero. Magari anche distorto, però lo ricordi comunque. Oh signore, benedetto. Ai ai ai ai ai. Oggi già mi sentivo bene, ma ieri mattina mi sono sentito male veramente. Ma sei andato di notte a Piazza Davanti nella mezzanotte? E allora, ma via, Sincaburro, beh. Comunque prima ci ha contattato di poco, tu ricordi quel programma Gamma, come si chiamava, quella specie di roba ambientata in un laboratorio? Ah, come Andromeda sarà. Ah, come Andromeda, sì. Io mi riguardo, adesso vabbè sono da un po', mi riguardavo su YouTube, te li puoi guardare tutti questi film vecchi, sceneggiati, per dire UFO, quante volte, Spazio 1999, quando ero piccolino UFO me lo guardavo sempre, mancava, adesso entri e te li puoi rivedere tutti. Quello lo stesso, quello che ti ho detto poco fa, le stelle stanno a guardare, era diciamo una rievocazione di quel dramma che c'è stato, che erano molti in Belgio, come si chiama, Massile, come si chiama qualcosa, quel posto di quella miniera, erano questi poveracci, mamma mia, ogni tragedia, tutti i poveri che erano morti poi tutti dentro. Ce n'è. E la freccia nera, non te lo ricordo. Io quel povero mi ricordo fuori al cavallo dell'Ouest. Claudio, ti ho mandato un messaggio, ho letto là. No, ero al telefono con un amico, mi ha chiamato per farmi gli auguri, aspetta, ma davvero, perché qua non prende, quindi devo andare vicino alla porta. Eia, quello la freccia nera, te lo ricordi, era tipo Robin Hood, tutto in bianco e nero, sai? A voglia, c'era Arnoldo Foà e quella ragazzina che faceva una parte di un ragazzo, non ricordo male, anche lì a Studi Storici. Sì, bello. Poi il numero uno era Zorro, quando ti guardavi Zorro che c'era il muto, cacchio, con quell'attore, come si chiamava? Aiutami. Sergente Ingrassia, qui stiamo parlando anni 70 proprio, Furia è già un po' più avanti, però Zorro, cacchio. Oh raga, dai, passiamo, ce n'è un po' in banda amatoriale, dai. La prima monitor che avevamo, ok? La prima, non 525, la prima monitor che avevamo. 00 o 450. Cazzo Robe, minchia cazzo. Ho detto la prima monitor e dici dove, così vengono a rompere i coglioni. Non lo so, se non mi dici cosa, la prima di chi? Io solo quella lì conosco. La prima, non lo devi dire, la prima che avevamo, non 525, no? Provate ad andare, vi cerco, cosa avete detto? Cazzo, 4,50, non me l'hai detto, 4,50. Andiamo lì, cosa avete detto? A chi c'è rimasto qua, che li salutiamo? Natalia, tu ci sei? Eia. Va bene. Ehi, dai, Natalia, dai, già ci sentiamo. Poi saluto chi c'è rimasto qua, c'è rimasto qualcuno? Ci rimango io. Tu la stai facendo? No, non ne voglio passare, dai, è acceso, ma no, non ne voglio. Gianfranco, a volte rimango perplesso, controllati il PMR, stai attento, io c'ho l'escansione, l'UHF ci stanno trattando in PMR, pensano di essere molto intelligenti, ma non sanno che nella diocese noi ne abbiamo 7-8, vai. Vabbè, se volete passare allora 525 sono io, vai. No, non ti preoccupare, tanto no. Sono anche tonti, fanno solo ridere, fanno anche tonti perché poi la storia non è passata tanto sotto traccia, che mi hanno chiamato poco fa. Andiamo a vedere. Sì, vabbè, lasciali fare. Adesso finiscono queste feste con una voce e così la terminano in bellezza i signori della zona bassa, perché sempre da lì tanto partono i discorsi, sempre da lì partono, inutile che sempre da lì. Poi danno le colpe a noi, radioamatori, che siamo noi, che è qui, che è là, invece se qualcuno si avesse fatto i cazzi suoi non avrebbe rotto le palle a nessuno, tutti vivono in santa pace. Va bene, poi vediamo, lasciamo passare queste feste, poi ve la do io la gazzosa che sei quattro imbecilli. Non ti preoccupare, Clara, e fruti di non ti arrabbia. No, mi arrabbio io, a me dà fastidio che esistano ancora queste persone che vanno a disturbare, a fare, a trattare. Ma cioè, se tu non stai cercando nessuno, vieni per farti delle chiacchiere e per non vedi altro che schifezze, capito? Alla fin fine, come ho detto io, non vale più la pena, quindi a cosa serve stare in radio nei canali 10 o il 27? Si fa banda amatoriale e ciccia. Vuoi passare al 28 500, Roberto? Vediamo se viene qualcuno a rompere le palle. Gianfranco, volete passare al 28 500? Ma là, io ti ripeto, a me non è che mi tocchi più di tanto, poi se ci sono le persone ignoranti, peggio baete, sono problemi, prima e poi li beccano tanto, prima e poi li beccano e passano guai grossi e piangono forte. L'importante è che io mi comporti bene rispetto alle regole e basta. Poi loro, se sono abituati a fare certe cose, certi movimenti, se vanno assumere, come ho detto stamattina, si assumeranno le responsabilità, perché se sono penali, prima magari ti potevano mettere un'ammenda, magari l'ammenda te la mettono comunque, però c'è una denuncia penale. E bisogna stare molto attenti alla fedina quando si iniziano a avere certe situazioni. Vai Gianfranco. Sì, per beccarli ci metto poco, basta fare nome e cognome, tanto so chi sono, so cosa hanno e cosa usano, quindi noi ci vogliono molti discorsi. È che fino adesso è andato sempre tutto bene, ma poi alla fine quando uno perde la pazienza veramente inizia a rompersi l'anima, capito? Tutto lì, vabbè. Sorvoliamo, comunque, io sto monitorizzando anche di WhatsApp. Dai, sfruttizzini, dai, rimaniamo qua, c'è Natalino. Guardate che ci sono qua, le persone che parliamo noi che siano tranquille e serene. Ok, Dio Natale, Pasqua e Capodanno, andate il maestro. E io vorrei fare un interrogativo a Gianfranco. Prego. Volevo sapere se un doppio SVL sente qualcosa di irregolare, lo può segnalare alle autorità. Dipende dalla frequenza, se è sulla frequenza amatoriale probabilmente sì, ma non so poi, deve essere corredata anche da qualcosa di più, ecco, di una semplice segnalazione. A meno che non sia roba particolarmente grave. Io sto parlando di cosa grave, di qualcuno che entra a disturbare i ratti che vanno in banda radioamatoriale a rompere le scatole alla gente che non li cerca. Io l'avrei segnalato, se sono sicuro che Tizio Caio sempre li avrei segnalato. Adesso stiamo un po' più allerta. Sì. Sì. Mino, vivo all'università e mi. E neanche di Cribippa si abbigassò. Ma infatti Natalia, lo sai benissimo, uno più uno fa due, quindi se qualcuno pensa di essere più intelligente ha sbagliato. Perciò non è che ci vuole molto, quando io vedo in PMR un segnale del genere, sono ad un'altezza dove vedo tutta la situazione, immaginati tu se può essere da Porto Torres, da Alghero o dalla Landrica, ma lasciamo perdere. Nella mia zona non ce n'è, nella zona dove ero io non ce n'è, nella zona di Roberto non ce n'è, quindi uno più uno fa due, sì, continua. Sta continuando? No, ce l'ho il monitor un po' di frequenze, ma c'ho anche sia l'EPD, PMR e le nostre bande amatoriali sia V che U. Ne ho quattro accese, una in due in V e due in U, quindi non ce n'è problema, c'è tutto sotto controllo, ma non è quello il problema, già fa, che a volte dà fastidio, capito? siete persone grandi, siete persone serie, siete persone educate, eccetera. Lo sapete, non bisogna fare certe cose. Non fatele, no, invece continuano. Invece continuano a fare cosa? A fare i stupidi e basta. Lo so, ma è come che... Ho detto che come il film di Alberto Sordi, no, col sindaco, rallenti, rallenti che c'è la curva, e no, rallenti che c'è la curva, e no, alla terza si farà nel burrone. E così sono questi, finché non ci cadono nel burrone non sono contenti, poi però piangono. Vabbè, io stamattina ero al telefono con una persona e gli ho spiegato un po' la situazione, ma ho detto sentiamoci dopo le feste e mettiamo il moto in radar, capito? Mettendo il moto in radar, poi qualcuno rimane, si fa la burbuva e poi dicono Claudio Sparviero, e Claudio Sparviero però vi ha avvisato di fare la braffia, se voi rompete i coglioni a Claudio Sparviero, Claudio Sparviero vince a tutti. Va bene, avanti Robert, riprendilo. Sta tranquillo qua. Tanto te lo ripeto, prima o poi è come quello che va a rubare, prima o poi lo beccano, prima o poi lo beccano e passa dei bei guai. Noi continuiamo ad andare per la nostra strada, comportarci bene, cerchiamo di essere sempre rispettosi, per cui i problemi ce li avrà lui. Io parto sempre a presupposto, sono persone ignoranti, chi lo fa una cosa del genere non è una persona intelligente, è poco intelligente, perché dico, non c'è nessun vantaggio, finché io dico ti ho fatto un dispetto o una cosa, mi affronti, mi vieni davanti, dice oh, ti ho fatto questo e quest'altro, non va bene, o è palio al limite da fare burro nelle peggiori delle cose. Però cosa ne hai tu a nasconderti dietro una radio e fare certe situazioni, come quello che mette la portata, la stessa cosa, dico cosa ne hai. Io la vedo sempre la radio come uno sfogo dello stress quotidiano, un divertimento, una valvola di sfogo e basta, la vedo così, non mi arrabbierò mai io per la radio, quando non mi piacciono situazioni spengo e faccio altro, ne ho tante cose da fare, per cui speriamo che questi signori che stanno facendo queste cose qui capiscano e si rendano conto di quello che vanno incontro e del significato di quello che stanno facendo, perché secondo me non hanno neanche idea di quello che stanno facendo, probabilmente lo fanno così come quello che va a graffiarti la macchina parcheggiata perché la vede bella e pulita. Sono persone che hanno qualche complesso mentale, no, la cosa più bella è che poi non mettono su Facebook, ho capito, quindi non bisogna neanche fare la fatica di cercare. Lo so, però vabbè, l'hanno sempre fatto qui, io arrabbiare, ho finito di arrivarmi, io vabbè, non me la fotti più nulla, a me deponente me la sono sempre a pace, io entro a farmi due chiacchiere, se poi devo rimanere in silenzio, so anche rimanere in silenzio, ne ho altro da fare, e l'ho detto già dall'altra volta, per me potete anche chiudere qua sui canali 10 e andarcene a modulare da altre parti, poco mi interessa a me. Mi dispiace perché sono persone valide, persone educate, ma continua a esserci sempre qualcuno che ha la voglia di giocare col fuoco e quindi facciamolo giocare, ma non se ne affrutti. Me ne frega sai a me, lasciate di fare, tanto prima o poi arrivano a capolinea tutti, ma se c'è bisogno di trovarli ci vuole un secondo a andare diretto mi. Vabbè, poi te lo spiegherò meglio in verticale. Avanti Natalie. Oia. Non è neanche furbo. Si sa già chi è. Figurati. Ci chiede 10 minuti da terapia. Ma va bene. E quindi che si mangia stasera? Allora, a casa nostra o a casa tua? Ah, a casa mia lo sai, per te e per Gianfranco non ci sono problemi. Sapete già dove sono, quindi potete venire. Natalino si deve fare accompagnare dal taxi. E così faremo. Adesso facciamo arrivare l'estate e poi facciamo una bella seminata, vabbè. E assieme. Già ce l'ho io l'elenco, non c'è problema. Quindi sei in vena di invitare. Buonasera. Beh, dipende. Se uno apre il cancello con i piedi, sì. Se lo devo aprire io con le mani, no. Lo sai che mi ha pittuto. Aprirlo con i piedi, sì. E comunque, sto portando a poc'anzi, state dando troppa importanza a questi quattro stupidi che fanno queste cose. Comunque, fate voi. No, diciamo, buonasera, non è dare importanza, è rispettare, nessuno non vuole male a nessuno, sempre per il bene, perché poi ci farà male, e a me dispiace, ma era una persona che conosco, e poi stavo scherzando qui e là, capito, perché con me puoi scherzare, puoi fare di tutto, con Gianfranco, con tutti, ma quando arrivano poi quelle persone lì, quelle non scherzano, ne sa qualcosa Natalino, ma non scherzano, senza aver fatto nulla, capito, quindi non scherzano, quelli entrano e pigiano, e scrivili, e soprattutto scrivono, quindi si dice sempre per il bene, mai per il male, ci mancherebbe altro, io non voglio male a nessuno, ecco, dico sempre per il bene, fatela bravi, perché lì non si scherza, soprattutto in questo, adesso di nuovo, che già da quest'estate è ripartito il servizio che avevano annullato prima, quindi ci mettono poco a partire in quarta, capito? Vai Robè per i saluti a Tino. Ciao Tino, ben sentito. Vai Gianfranco e poi Natalina. Sì, ciao Tino. Buonasera, ben ascoltate, auguri, anche se in ritardo. Guarda, non c'è bisogno neanche di parlare di queste cose qua, no, si dimmi. Tanto la gente è anche ignorante. C'è il centro d'ascolto e quindi li pizzicano. Poi anche, parliamoci chiaro, anche le associazioni fanno la segnalazione, perché nel momento in cui sanno quello che succede, gliela fanno, non ne frega niente a nessuno, che ne c'è bastonato, che le danno una multa esorbitante, che i vicini fanno la polizia sotto casa, la portale, che le buffa la porta, cioè, ma neanche per la vergogna. Comunque, vabbè, fece Baresi, cosa vuoi che ti dica? Riprendi Natalì. Infatti, loro non sanno cosa stanno rischiando, capito, queste persone qua. A me già per la storia dei disturbi sono venuti in quattro mi qua. E mi hanno fatto i verbali. Va bene, riprendo io. Cosa ti faccio da mangiare, Claudio? Claudio, non mi abbandonare, cosa ti faccio da mangiare? Ah, perché glielo chiedi se lo sai. Codine di cinghiale. Codine, mi sembrano piccoline dal nome. Ma ci sono anche le orecchie. Ah, allora va bene. Vabbè, dai, sono in corretto. Comunque dai, rinnovo gli auguri a tutti quanti. Sono qua al PC che sto compilando un documento, quindi devo stare un po' attento, dai. Sono in corretto. Buonasera a tutti. La riprendi. Buona serata, buon proseguo anche a te, fa che non bisogna fare una cosa troppo grande, si assumono responsabilità come ho detto prima, poi io dico queste persone se proprio vogliono divertirsi potrebbero anche con sempre rischio e pericolo loro, dice il centro e mandare a te una terminale, visto che possono trovarmi comunque, saluto, ciao, mi chiamo quello e quell'altro, mi invento un nome, quella gente entra, perché fare come stamattina ha fatto anche mattutine un po' poco simpatiche con nominativi e poco simpatici, se proprio te la vuoi rischiare, è inutile fare lo scemo e poi ti nascondi dietro le cose. Ok, di nuovo a Natalino. Ma poi è ignorante anche, perché l'ha detto anche in 27 quello che stava dicendo lì. Non lo so, io lo vedo sempre come persone, come tutto ignorante, boh. Ok, vai, basta, cambiamo discorso, che ne abbiamo parlato pure troppo. Gianfranco, date il mic. Che canzone ci propone il jukebox adesso? Oramai il jukebox, non ci sono più le monetine. Il gestore ha visto l'orario e vuole anche che si chiuda, tra l'altro. Che quelli all'antica, capito, negli anni 60-70 non c'era la libertà di oggi. Ne abbiamo consumato i soldi ai jukebox al bar, mi ricordo il periodo estivo quando andavi con le canzoni, perché non tutti si potevano permettere un impianto stereo, qualcuno magari ci aveva i mangiadischi, cose del genere, poi piano piano sono diventati di uso comune, la prima costava avere un giradischi, degli amplificatori, c'erano quelli Riders Digest della selezione, vi ricordate, Stereorama eccetera, ma se li facevano pagare un po' di soldi quegli impianti della Lesa. Quanto costava la jukebox a disco? Guardate un secondo, devo chiedere a Tino se mi ascolta bene col Galaxy, lui che conosce. Tino, bene mi ascolti col Galaxy? Ti sto ascoltando con l'H5005, aspetta che accendo, vabbè. quindi ce l'ho dato. No, neanche con quello, la modulazione insomma è buona, va bene. Ottima, va bene, va bene. Ok, non ti preoccupare, lascia tutto così, dai. Il segnale non mi interessa, intanto sto usando la potenza della radio con l'altra antenna. Cosa stavi chiedendo, Gianfra? Quanto costava il jukebox a disco? Guarda, non ho idea, forse Roberto magari, che lui era in mezzo a queste cose, boh. Ma cosa vuol dire? Quanto costava il disco per inserire il disco? Per sentire il disco, sta dicendo? La monetina. Allora facciamo le lire, quant'era? 10 lire, 20 lire? No, io li ho conosciuti da 50 lire. 100 lire te facciamo mettere 3 di dischi. Eravamo già cari all'epoca. Per quello tu ti compravano le radioline. Io c'ho, mi hanno regalato un amico nuovo, un mangiadischi da macchina che funziona a 12 volt, cioè i cavetti per attaccarlo dietro e una custodia tutta in pelle che si apre e ci puoi mettere i dischi. C'era anche lo spazio per mettere, fai conto, un contenitore che lo apri, il coperchio tutto in pelle e c'è il mangiadischi. Poi c'è lo spazio per mettere i dischi, lo per attaccare in macchina, c'ha un piccolo altoparlantino sotto, bellino, anche in buonissime condizioni, credo che l'abbiamo usato pochissimo ed è a valvole. È così. Riprendi Claudio, tu in macchina cosa c'avevi? La Vox, non te la ricordi? La radiolina che c'aveva il filo, no, dentro, che girava le stazioni. Sì, con l'analogico, con la cordicella. Ma io sono collezionista di radio, sia autoradio che radio. Avevo rilanciato a Claudio. Claudio. Sì, vabbè, intanto è venuta un'ambulanza a prendere la luce. Più che altro mi sembrava la polizia. Se ricordi che ogni tanto si spezzava il filo, la volevamo aprire, io ci mettevo la lenza, la pesca, che funzionava lo stesso. Io gli avevo messo un elastico, perché c'era un filo e ogni tanto partiva, allora gli avevo messo un elastico e ti dico che non si è più rotto, era una canonata. Natali, tu cosa ci mettevi? Aspetta, Natali sicuramente sta facendo la cosa che poi deve mangiare, sono già le 7:10 per lui. Sì, avevo messo un elastico ben tirato e andava benissimo. E c'era questa cordicella leggera, intanto si spezzava ed era un casino. Te ne ricordi i tasti che c'aveva, quelli neri, infatti forse non era neanche plastica all'epoca. Cosa bacchette tu? Che premevi e spostava le stazioni. Già me lo ricordo. E come se me lo ricordo? Aspetta un attimo. No, stavo dicendo Gianfra, io di radio mi già ne ho visto qualcuno a radio, Claudio, anche tu ne hai visto qualcuno a me pare, di quelle dagli anni 60 in poi, anche prima qualcuno del 60, ne ho anche più vecchie, quelle a valvole pure, di radioline, parliamo radio autoradio, e poi c'ho la collezione di radio quelle classiche da casa, quelle le solite, con l'occhio magico, c'ho anche quei mobili grandi col coso, col giradischi, eccetera, c'è uno grande, enorme col televisore, ne ho diverse di radio, è che non le posso portare in zoppanghe, sempre che quando non mi alza in testa qualcuno me la riporto qua, ne ho in casa un 4-5 me ne sono tenuto, però ne ho tantissime, almeno un'altra trentina da un'altra parte. E come accordava bene quando toccavi quel compensatore lì, l'antenna, che se no si sentiva un tubo in onda media, allora l'FM ancora non c'era, e giravi di quel compensatorino per l'antenna grondina, poi... Ma io ho di quelle con FM, che hanno già l'FM che è uscita negli anni 70, che va da 92 da 90 a 102 mi sembra, 91 a 102, ma tu quando ascolti le radio FM 88-108, ma hanno un suono, tu rimani cavolo quanto suona bene, considerando che hanno una tecnologia di 60 anni fa, anche di più, eppure li senti, bello il suono della valvola, molto piacevole, solo bisogna stare molto attenti, infatti adesso mi sono comprato un Varia, me l'hanno dato, un variac per accenderle piano piano. L'errore mio, ne ho bruciato un paio accendendole troppo in fretta, dandogli la corrente 220, invece devi iniziare piano piano da 80 volt, le lasci un'oretta 80, poi inizi a salire piano piano, così non crepi condensatore. Lo sai, ne ho bruciato del radio così, almeno due o tre le ho bruciate, fate come uno scemo, perché sbagliavo l'approccio, bisogna sempre cose. Ed è veramente bello, le radio ne ho qualcuna veramente proprio bella bella di valore anche. Poi c'ho le autoradio, lo stesso devi stare attento, di lì se non li metti il carico degli altoparlanti, i bruci finali immediatamente. Oh, datemi 10 minuti che devo passare in cucina, devo avviare della roba che è avanzata, già sono qua comunque. Sono Gianfra, sì. Tu che sei appassionato di roba militare, parliamo di apparecchi, c'è da Michele, lo sai Michele, quello che c'è sopra la Conad di delle piscine, di via Romita, dietro la Torres, nota di acquoto, c'è UVS, sopra c'è il centro Luna e Sole e c'è il negozio collezionando di Michele, un amico, e io ho preso tante cose da lui. È arrivata una radio militare russa, spalleggiabile, che è tutta in metallo, che penso era 10 kg, dai, anche di più secondo me, che si apre tutta ermetica con le guarnizioni proprio chiusa, per aprirla ti spacchi le dita perché c'ha questi sistemi di chiusura a scatto, ma duri, infatti mi sono mezzo crepato un dito per aprirla, e ne ha una di quella. Il proprietario voleva una cifra importante, ma io sono sicuro se li fa vedere 100 euro te la dà, voleva 150 euro, col suo microfono, le cuffie, bellinami, per chi piacerebbe, nuova. Magari l'ha presa la radio sul fruso, non ne capisce niente, la sta riprendendo. Tutto lì. Perché di russe ne hanno parecchie. No, perlomeno ne avevamo parecchie in vendita. No, non l'ha presa la radio sul fruso, del coso, del cognato. C'aveva un laboratorio, no cognato, lo zio mi ha detto, non è di Sassa, è di un paese, mi sembra di Bonorva, c'aveva un piccolo laboratorio, hanno smontato tutto, infatti c'aveva anche altre roba, portato un po' di altre cose, cose che non c'entrano niente, poi strumenti, c'era un soldatore, io non avevo mai visto soldatori così antichi, ma vecchio, di quelli a pistola, ma proprio sarà stato degli anni 40, penso, una cosa mai vista, altri attrezzi c'aveva, no, questo è di un laboratorio, ed era dello zio, mi sembra, qualche parente suo, e le hanno svuotato tutto, tra cui c'era anche altra roba, questo apparecchio qua, a chi piace il genere, io penso che 100 euro se lo dà questo. No, ma poi non ci sono i pezzi, è un casotto, guardate. No, a me mi piacciono quelle moderne che funzionano possibilmente, o perlomeno recenti. Sì, no, assolutamente, ma io ne ho una grossa da campo, che l'avevo presa sempre lui da Michele, però peserà 30 kg, non va a ragione, l'ho presa perché me l'ha quasi regalata, questa qua in conto in vendita ce l'ha questa affare, però a chi piace il genere militare, c'è gente appassionata, gli piacciono queste cose, e sinceramente ho le avviste, quelle due che ho io dentro l'armadio, però è solo estetica, non va in nuda, però se trovi qualche radio come quella Barrett o qualcosa del genere, già possono essere interessanti. Ma molte di quelle stanno ancora lavorando e non è che tutti si possano permettere, organizzazioni eccetera, di spendere 5-6 mila euro per mettere una radio, se poi ci metti anche l'antenna il prezzo sale di colpo, perché quelle della Barrett sono antenne autoaccordanti, quindi sono molto molto molto costose. È così. E infatti io la notte non sto dormendo perché penso a quei Dalton in mano ai talebani, roba davanti. Purtroppo facciamo venire avanti a Natalino, ho andato via, c'è Natalino, ci sei? No, forse è andata a cena, lui deve mangiare a quest'ora. Ah sì, l'ha detto, adesso ho perso la cognizione del tempo. Oggi sembrava una giornata, infatti ho toccato, mi domani devo andare a lavorare, adesso convinto che fosse sabato oggi, perché queste feste ti hanno scombussolato un po' la logica del coso, delle giornate, infatti poi pensavo, perché domani è 27, domani bisogna lavorare, infatti ero, me la sto prendendo un po' tranquillo, invece bisogna organizzarsi il lavoro domani. Tu lavori domani, Gianfra? Io devo passare il mio posto per una questione di copertura radio. Quindi lavori? In pratica un lavoro. Devo passare e fare dei test di telemetria. Ega, ho visto proprio ieri, a proposito di telefonia di coso, di Claudio, ti danno una specie di piastrina che è un'antennina fittizia, diciamo, che si attacca dietro al telefonino, è una specie di bobina, cioè presente, è fatta su un circuito stampato una bobina disegnata, dai, tipo quando ti mettono il filtro sul circuito stampato, li hai mai visti quei filtri passo a basso, eccetera, che te li mettono direttamente sul circuito stampato e si mette nel cellulare appiccicata dietro, nella cover, e c'è un discreto miglioramento, per dire, quando riesci appena appena, come ti muovi, aggancia, no, con questa specie di antennina fittizia e passiva, non fittizia, scusa, ho sbagliato la parola, riesci a migliorarti un pochettino, e costa, mi pare, 20 euro e te l'attacchi dietro al cellulare e magari riesci un po' a farti ricevere un po' meglio. Ho visto delle recensioni, ne parlano abbastanza bene, dice, in certe situazioni può essere utile anziché fare altre operazioni più costose. Vabbè, si chiama antenna induttiva, ma c'è i suoi limiti, che sono parecchi, quindi Claudio serve qualcosa di meglio. Qualcosa di meglio c'è, però è riferito a internet, infatti io devo fare un salto per quello, per fare questa cosa. E mentre invece per la telefonia per il propria unica, io so già cosa ci vorrebbe lì, però il costo è alto, perché stiamo parlando di 450 euro omologato con tutte le licenze europee, quindi è un oggetto assolutamente legale, però il più piccolo è 450 euro, capisci? Sì, tu stai già parlando di cose abbastanza costose, deve valutare lui, vedere un pochettino e da farsi. Poi già fra quando ci abbiamo, anzi quando c'è, non quando ci abbiamo, perché sei tu il cappuccia, rimettiamo quello al discorso che siccome ho resettato il TS2000 e fare il lavoro, quello di riabilitarlo col computer, ti ricordi la porta che avevamo fatto? Quella vuole riconfigurata a 4008. Se poi ci hai messo 5 minuti col computer nuovo, hai messo un attimo, no, ti ricordi, ci azzuffavamo, cioè, c'è stato un po' complicato, il problema era il computer, era un po' scaccino. Con questo invece è fatto tutto in 5 minuti, anche le chiavette, ti ricordi? Sì, ma si possono anche iniettare le memorie, purtroppo non abbiamo un file di salvataggio. Se ci fossero un file di salvataggio, le potremmo mandare le memorie direttamente alla radio e senza neanche programmarlo. Ci vorrebbe qualcuno che ci abbia un 2000 che mandasse il file, e noi quel file lo prendiamo e lo buttiamo dentro al 2000, capito? E quindi lui automaticamente ci avrebbe tutte le memorie che vogliamo, ma comunque quelle che ci interessano sono poche, quindi non è che sia più complicato di tanto metterci. Si può mettere manualmente. E poi stavo guardando con la funzione del TS2000 che non conoscevo, ho visto un video alla televisione, su internet. Ti ricordi che noi, quando diceva Marco, cerchiamo, guarda che si sta spostando, quando abbiamo fatto quel collegamento su quel satellite, ti ricordi l'altro giorno? Sì, è stato fatto apposta, c'è anche scritto SAT, credo, sulla manopola. Serve proprio per fare questi leggeri spostamenti di frequenza, però in maniera precisa. No, ma lo fa in automatico, tu lo vedevi, faceva la scansione piano piano, destra e sinistra. Infatti ho detto, cavolo, non sapevo lo facesse questo apparato. La gente lo comprava solo per quello, per fare attività di satellite. È proprio una specifica del 2000, quello lì. Poi non so se l'abbiamo messo anche su altri apparati, ma non è idea. No, ma considerando che è uscito 20 anni fa, perché il TS2000 è uscito nel 2000, all'epoca era rivoluzionario, cioè chi c'erano apparecchi che facevano quello che lui faceva? Adesso tu mi dirai, è una normalità, lo fanno anche il più giocattolino di questi apparati amatoriali, ma all'epoca avere tutte quelle cose concentrate su un unico apparato era una cosa rivoluzionaria. Ma era un periodo in cui le cose venivano fatte anche un pochino meglio. Adesso molte marche stanno impazzendo, e non voglio fare i nomi, Yaesu. Ma quando è uscito lo stesso, il 990 della Kenwood, era rivoluzionario con quel display touch screen enorme, hanno dato di spettro, il coso, la cascata sotto, tutto fatto in un unico display, era bellissimo. Adesso vedrai, ce l'hanno tutti, però quando è uscito il 7,990 mi sembra che sia uscito una decina di anni fa, gli altri ancora non ce l'hanno arrivati. La Kenwood, l'unico problema della Kenwood è quello lì, non segue le problema, nel senso si fa un apparecchio oggi, che oggi è il top, poi gli altri continuano ad andare a superarlo e poi dopo 10 anni te ne fa un altro e ti inventa. Poi ha fatto l'Apple per i telefonini, è stata rivoluzionaria per certi mesi, poi gli altri hanno copiato. Oggi ha fatto il TS2000, che è stato nel 2000 rivoluzionario, nell'anno 2010 ha fatto il 990 e così adesso tra 10 anni o 15 anni non lo so ti fa un altro apparato che per di per sé sarà rivoluzionario. Mentre i comoiesi si fanno la guerra per chi ha la prestazione di 0,3 punti migliore di quell'altro, vivono su queste cose qua. Si è fatta ora, vabbè, devo allontanare perché la scena è pronta. Ci sentiamo dopo, non so se Claudio abbia girato tutto o se sia ancora in cucina. No, io già tengo ancora accesa, no, sinceramente fame non ne ho. Ho mangiato poco fa, un'oretta fa, dei coso, dei dolcetti sardi che mi hanno regalato, per cui sono anche abbastanza carico di energia. Poi vediamo, dai, tengo, rimango qua, eventualmente faccio un giro anche da altre parti. Se ci sentiamo dopo Gianfra. Una carica buon tutto nel frattempo. Vediamo se le orecchiette di Claudio si sono ben cotte. Avanti Claudio. No, stavo avviando la pentola a pressione, sto facendo un po' di cinghiale in agrodolce. Visto le codine, cosa detto io? Cacchio, non vedo più cinghiali in giro, tutti scomparsi, nella zona del Serrassetta, prima li vedevi, adesso non viene più, tutti lui li ha presi. No, beh, se te l'ho spiegato come li prendi, io lascio il cancello aperto, lo metto a mangiare, entra la mamma con i piccolini, la mamma la mando via, mi tengo i piccolini. Sì, ma io non ho capito una cosa, ma se ti mangi queste benedette codine, tutto l'altro che ne fai? A Filippo, infatti, sta diventando un cinghiale anche lui. No, ne avevo un prezzo, ma l'avevamo dato già da tempo e quindi lo sto facendo in agrodolce, però vuole far solo la pentola a pressione, diciamo che vuole una bombola. Infatti adesso sto guardando, 7:30 appena inizia a uscire il vapore, calcolo 15-20 minuti ed è pronta. Va bene, va bene, cappa di rosmetro. Dai, ci sentiamo dopo, cioè dopo se possibile, non la cena qua. Ehi, buon tutto là, io rimango qua in corretti, tanto ne ho roba da fare qua dentro. Se qualcuno vuol parlare sono ben disponibile. Ehi, già sono qua io, non c'è problema, vabbè, tanto ho già avviato tutto, non è che devo fare niente, adesso appena esce, inizia a uscire il vapore, abbasso appena il gas, lasciamo andare 15 minuti e poi faccio tutto il condimento. Ci sono scariche, lo dovete succedere. La gente scarica da me o da te? No, da me, sono cose tipo temporale o qualcosa di... Va, bindaccio, non c'è temporale. Sono uscito fuori a chiudere gli sportelloni e bello il cielo, bello asciutto. No, adesso si è abbassato, si è sentito tipo scarichette, non so di cos'era, magari qualcuno vicino ha usato qualche cosa elettrica, qualche apparecchio, non ho adesso ritornato come prima. No, oggi forse adesso non piove, domani già piove un pochettino e martedì è buona comunque la giornata. Vabbè, vediamo. Sono rotto le balle, stacco. Tutto l'inverno così, mamma mia, non fa tempo a mettere a posto una cosa che ne devi mettere a posto un'altra. Adesso ho visto il tappo di un pozzetto nel giardino che si è tolto, deve essere l'acqua là, non era ben asciutto ed si è sollevato. Adesso come cambia un po' il tempo, ovviamente devo metterlo a posto, le palle, intanto ce n'è una. Ma sta scaricando bene adesso, non hai problemi? No, per carità, no, vabbè, adesso sono tutti gli scarichi dell'acqua piovana con i pozzetti di recupero e tutto, però i tappi del pozzetto io l'avevo appoggiati così, capito? Invece che si è sollevato il livello l'ha tolto, adesso lì non si può passare. passare perché è tutto bagnato, aspetto che asciughi un pochino, poi lo metto a posto. L'erba tagliatela, con quella c'è tutta l'erba, rasa erba, c'hai o col decespugliatore la fai l'erba? No, c'ho la erba e il decespugliatore, quando l'erba è alta il prato lo taglio con rasa erba, quella piccola a quattro ruote, e c'ho la sacca dietro, e il decespugliatore lo uso per l'esterno, capito? Per i rovi, per l'erba più grossa, insomma, ma no, adesso non ce n'è. A scoppio e la serva? Sì, tutte e due a quattro tempi sono. Io non ho il problema. Ok, no, è bello il prato, ma l'hai piantato tu quel piano? Sì, l'ho iniziato quest'estate, però poi l'ho dovuto riprendere perché quando ho messo i semi tutti i santi giorni innaffiavo, cazzo le formiche si portavano via tutti i semi d'estate, capito? Infatti quello della grisoma ha detto no, te la stai sbagliando, fallo quando verso settembre, ottobre e anche novembre. Allora l'ho ripreso a fine ottobre, primi di novembre, ha iniziato a piovere ed è partita la sola, capito? Ed è partita la sola, perché dall'altra parte l'ingresso del cancello era già bello fatto, l'altra parte ce n'era bocca, adesso è diventato tutto bello, bello compatto, capito? Però l'ho voluto riprendere perché le formiche, cazzo, si mangiavano tutti i semi, si portavano via tutti i semi. Fate a seguire da dove partivano le formiche e li mettevi la medicina e vedi la sua benzina. Ehi, vabbè, era fastidio, avevo un sacchetto, l'ho ripreso e così non innaffi neanche, capito, con tutta l'acqua che sta facendo, che ha fatto, è partito da solo, è meglio così. Infatti quella parte lì che è più bassa rispetto all'ingresso non l'ho rasata ancora, la sto facendo sollevare un po' e poi si vede che il colore è diverso, è più verde rispetto all'altra, capito? L'altra è più vecchiotta. No, no, già era bella, infatti l'ho vista che è sana, non è di quella bruciata che magari te ne esce un pezzo di un curorio, un pezzo della... Sì, ma si vede, beh, l'ho vista anche Gianfranco, l'ho vista anche Carlo, è un altro molto bello il tratto giardino. Poi ho finito quei lavori che ti avevo detto dei proviali in facciata, perché c'erano le tegole, praticamente dal poggiolo di sopra mi pisciava l'acqua nel giardino. E quindi ho tagliato le tegole, messo i canali, i tubi, tutto, e scendono nei pozzetti di recupero, nelle due colonne, ho fatto un bel lavoro. Poi dietro stesso avevo finito, c'è sempre da fare, vabbè. C'è sempre da fare. Non so pure, vabbè, meno male, non c'hai ettari di terreno, già riesci ad andarti piano piano. Guai, se fosse più grande, che il giardino già è bello grandetto, ma è gestibilissimo da solo. Però c'ho tutta l'aria fuori, tutta l'aria dalla parte del cancello, dalla parte della strada che scende giù in cantiere, lato dietro il giardino, quello è tutto mio, lo stesso il terreno. Dietro non l'ho visto, dietro la casa ce ne hai il pezzo di terreno? Sì, andato dove ci sono le antenne, quel pezzo di terreno sino ai pali della luce, quello è tutto terreno mio. Sì, non è una bella pura, a me piace un bel, l'ho detto dall'inizio, hai fatto un turno all'otto, rispetto a dove eri prima, non hai aburuto, sei tranquillo, puoi fare i fatti che ti piacciono, non c'è problemi di andare a portarti il cane ogni giorno a fare, dici apri la porta, esci, ti fai bisogni e te lo lasci e non ti preoccupi di niente. No, infatti quando li fa la sera, poi la mattina appena mi alzo lo raccolgo, pulisco, però è un altro pianeta, perché cazzo mi ne ho preso freddo col cane, ma freddo, carbonassi, minchia, cazzo, piovendo, dopo pranzo, a l'una e mezza dovevo portarlo, poi la sera alle 7:30, 8:15, un freddo dovevo portare, qua lui va vicino alla porta, ma si è abituato, è stato un 15-20 giorni, che dovevo mettere il guinzaglio, però era l'estate, quindi non avevo problemi, e dovevo portarlo giù nella stradina sino ad arrivare giù al cantiere. E poi piano piano ho iniziato a andava nella porta, aspettava e poi se ti stai facendo già fai, il giardino è questo, arrangiati. Ha iniziato, visto che andava nel muretto, faceva la pipì, poi ha iniziato un pochino a farla nell'erba, sempre la pipì, ha detto cazzo ma il tuo cane non caga mai. Poi ha iniziato a farla, ha detto sboccato di sì, adesso è padrone, adesso la mattina si alza, esce, entra, poi io lo faccio uscire e chiudo la porta. buscia, è proprio buscia, dà due colpi alla porta che vuole entrare, dice ho finito, io fammi entrare nel freddo. Oh Cristiano, no, ma poi non dico d'inverno, ma d'estate rinascerà quel cane, perché sta l'aria aperta, si mette nell'angolino, non è la stessa cosa di rimanere in appartamento, lo ringiovanisci di qualche anno. Guarda, vabbè, d'estate faccio fatica a farla entrare, sta coricato al sole, 30 gradi, lui sta coricato al sole, ma non nell'erba, io gli ho fatto proprio un punto suo, dove c'è quel finto prato, no, dove lui si corica, ho preso l'addì come quello da mi pare sia 3 metri per 2, e lui sta lì sdraiato, pancia all'aria, con la lingua fuori, e mamma mia, poi quando c'è troppo caldo se ne va sotto la veranda, c'è la ciotolina nell'acqua, beve, e poi la sera, come cala il sole, lui se ne entra dentro da solo e si corica al fresco, perché dentro c'è un fresco da paura d'estate.